Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegé Telesforo. Buona domenica a tutti voi in contatto con il soundcheck di Radio 24 qui dal Groovemaster Studio. Buona domenica da Gegé Telesforo, buona domenica a Francesco Tromba, immancabile. Ciao a tutti. Allora, oggi è una domenica interessante perché abbiamo il piacere di ospitare non uno, bensì due eccezionali artisti, musicisti che poi conosciamo molto bene. Eh sì, sono anche nostri amici. Sono nostri amici. Allora, presento prima l'elemento femminile dell'appuntamento di oggi, una voce ormai accreditata anche nell'etere perché, possiamo dirlo, è quasi voce ufficiale del soundcheck di Radio 24 da un paio di stagioni, giusto? Esatto. Esatto, però oggi viene qui in veste di artista e quindi per me è un grande piacere e un grande onore ospitare Silvia Barba. Buonasera a tutti, buonasera Gegé, buonasera Francesco. Hai cambiato il... Senti, ho impostato la voce diversamente. Così. È vero, un è po' vero. Più da artista che viene ospitata in una trasmissione così accreditata. È vero, perché non tutti sanno che tu sei una vocalist. No, dai, lo sanno. Lo sanno. No, dico, ma gli amici di Radio 24 che ti sentono qui pensano che tu sia solo ed esclusivamente una giornalista che fa la producer per il cinema. Tu fai talmente tante cose che poi diventa... difficile collocarci. Esatto, anche per me. Esatto. È difficile la collocazione. Però oggi tu sei vocalist al 100%. Grazie, questo è un bel regalo che mi fai. Tra l'altro hai fatto anche una bella cosa ed è per quello che sei qui. Perché se tu avessi fatto una cosa brutta... non l'avrei certo. mai passata, Silvia. Vuoi mettere l'amicizia? Quella arriva fino a un certo punto. Grazie, questo è ancora più bello sentirtelo dire. E perché si trova qui questo mio amico? Perché è uno dei migliori batteristi italiani, tra l'altro musicista che io conosco da tanto tempo. Abbiamo fatto anche centinaia di concerti, sul serio, centinaia di concerti, dischi insieme, partecipazioni a programmi televisivi, grandi spettacoli, grandi mangiate, grandi tournée, tanti chilometri insieme in macchina, divertimento prima, durante e dopo. Dopo i concerti, Madame Messier, un uomo solare al 100% come Amedeo Ariano. Ciao a tutti, ciao Gegé. Allora, ci siamo divertiti tantissimo. Speriamo di continuare a divertirci. Sicuramente, sicuramente. Finché si suona ci si diverte. Finalmente sono contento di vederti qui nel nostro studio per Bellissimo. Parlare di musica, parlare della tua attività. Tra l'altro non solo sei un batterista accreditato, ma come spesso stanno facendo nell'ultimo periodo i musicisti accreditati, sei diventato anche docente di batteria jazz pop al Conservatorio di Frosinone. Sì, devo dire che è una cosa molto bella per me, non è un punto d'arrivo, ma non è neanche un traguardo, ma è una cosa bellissima, una soddisfazione per me. Sì, quando poi un musicista accreditato si ritrova a fare il didatta e deve impartire lezioni, sa che deve continuare a studiare. Quello, anzi, io lo faccio soprattutto per studiare, è l'unico modo per me per studiare di più. È vero, perché tu... Ma studiare, non è, no, guarda, Roberto Gatto, il nostro amico studiare. Roberto, mi ha detto, lavorando per il programma TV Variazioni su tema, mi ha detto che lui non aveva mai studiato tanto. Ha iniziato adesso a studiare tantissimo perché ha capito che, insomma, il talento naturale lo aveva sfruttato già abbastanza, no? Devo dire che sono d'accordo con lui. In effetti anche io non ho passato molto del tempo, del mio tempo, a studiare lo strumento. Ho pensato più a suonare, devo dire. Ecco, più a suonare, quindi hai fatto proprio la professione, adesso però ti tocca studiare e capire come impartire tutto quello che hai imparato in una carriera che ormai è trentennale, no? Devo dire sì, 32 anni. 32 anni di carriera, sì, per Bacco. Sì. Siamo lì, Sono vecchio, eh? No, ma che vecchio, stai benissimo. Ti ringrazio, Gigi. Io, guarda, con te mi vengono anche delle battute formidabili, perché poi Silvia, non so, tu conosci Amedeo, no? Benissimo, come no? Benissimo, però sei mai andata in tournée con lui? No, in tournée no, sono andata ai suoi concerti. Allora, andare in tournée con lui è praticamente uno spettacolo. Allora, ma lo spettacolo Amedeo lo fa anche quando si trova sul palcoscenico. Io direi subito di celebrare un nostro amico e un musicista con il quale tu ormai collabori da anni, anzi sei uno degli elementi, dei cardini, dei pilastri del quintetto, che cos'è, un quartetto? quartetto. È un quartetto. Un quartetto del nostro amico Sergio Cammariere, sì, da 18 anni ormai, che ha pubblicato ultimamente un nuovo album, una collection di suoi successi, e questa è la versione più recente di un grande successo, che è una canzone bellissima. Ti piace? Ma tantissimo. Il brano è Tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere, e alla batteria c'è lui, c'è quest'uomo qui, Amedeo Ariano. Il suono del pianoforte, la voce, la passione di Sergio Cammariere con Tutto quello che un uomo, brano che si aggiudicò ormai diversi anni fa il terzo posto al Festival di Sanremo. E sul palco in quell'occasione Sergio portò la sua band sì, che sta insieme praticamente da tanti anni, quindi Amedeo Ariano alla batteria, oggi nostro ospite, Bosso, Fabrizio Bosso alla tromba, Luca Bulgarelli al contrabbasso, e li salutiamo tutti con affetto. Sì. Ma insomma questa è la forza di questo quartetto, l'amicizia e il fatto che state insieme da tempo. Da tanto tempo, alla fine, come sai benissimo, se c'è qualcosa sul palco la gente lo avverte, quindi è questa un pochino la nostra forza, il nostro insieme. Credo che oltre alle belle composizioni che Sergio propone e scrive, ci sia anche questo approccio molto jazz nel suono e anche nella interpretazione musicale dei brani di Sergio, e poi con la sua voce, i testi bellissimi di la maggior parte sono di Roberto Kunstler. Ecco, si fa il resto. È vero, devo dire che il suono di Sergio, di Cammariere, è un suono piuttosto acustico. Ed è anche un genere molto versatile, nel senso che nella sua musica è presente sia il jazz che la musica sudamericana, che la musica classica, e quindi c'è un insieme di componenti che danno vita a una... Beh, io conosco molto bene Sergio, certo, quindi risento nelle sue composizioni tutto quello che ha ascoltato. Giusto. E che abbiamo anche ascoltato insieme. Io ho sentito insieme da Sergio delle cose pazzesche, dei provini fatti insieme da 30 anni fa, lascia stare Amedeo. No, invece perdonami, io sono curioso invece di avere informazioni da Silvia Barba su questo brano che finalmente mi è capitato fra le mani, un brano intitolato Regalami di te. Sì. Brano che mette insieme questo stranissimo organico, ovvero il Bass Voice Project con Pippo Matino. Esatto, è un progetto che abbiamo da qualche anno ormai, e questo fa parte del primo album dove era stato scritto questo brano insieme a Ziba. Pippo e Ziba avevano scritto questo brano, io l'ho ascoltato, ho detto voglio rifarlo in duo con Ziba stesso, per cui ci ha regalato la sua voce di nuovo anche nel nostro album, che si chiama Bass Voice Project. Soundcheck. Il suono della musica. The Thing and the Thang, brano tratto da un album del 2012, credo, giusto Amedeo? Che bello, sì. Intitolato So Cool, in studio Amedeo Ariano, presente oggi nel Groovemaster Studio, Dario De Ida al basso elettrico, sì. Alfonso De Ida che suonò un po' di tutto, dal pianoforte ai vari sassofoni, e il formidabile Max Ionata al tenore, brano che abbiamo suonato moltissimo dal vivo e che io continuo a proporre anche in questa tournée in corso in questo periodo, proprio per promuovere il progetto Sounds for Children dell'UNICEF. Posso annunciare i prossimi concerti, Amedeo? Devi, assolutamente. Tu sei impegnato il 5 di aprile? Se non sono impegnato vengo a sentire. Vieni a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, siamo lì con una super band, con la partecipazione della bravissima Joanna Titters, che è arrivata proprio da New York per partecipare a questo tour. Poi ci spostiamo il 6 a Bologna, al Bravo Caffè, andiamo il 7 di aprile a Ferrara al Torrione Jazz Club, club fantastico, sai che per la prima volta suono lì. Fantastico. Bene, e poi chiudiamo questo giro al Blue Note di Milano. E poi mi riposo qualche giorno e ricominciamo con la radio. Bellissimo. Giusto, tromba? Esatto, siamo prontissimi ad ascoltarti in tournée. Allora, Amedeo, oggi sei con noi per parlare di musica, per parlare di didattica. Quanto ti diverti ancora in giro, in tournée? Non sei stanco di andare in giro? Mi piace tantissimo, ma lo sai benissimo, che alla fine la cosa più bella è andare in giro a suonare, conoscere posti diversi, conoscere gente nuova e suonare musica ovunque, nei teatri, negli spazi dove si fa musica, e non c'è cosa più bella secondo me. Ecco, tu hai fatto una lunga gavetta, ma una lunga gavetta da professionista. Dico gavetta perché hai suonato di tutto, con tutti e in qualsiasi tipo di contesto, dai programmi televisivi stagionali, che hai fatto anche la batteria tipo a Domenica Inn. Sì, Uno Mattina diversi anni, e Domenica Inn tutta l'edizione del 2000 e tanti altri programmi televisivi. Ma a me piace tantissimo essere abbastanza aperto musicalmente parlando e quindi suonare qualsiasi tipo di musica. Sì, e anche tecnicamente sei aperto quando suoni, no? Perché giusto. È uno dei pochi batteristi, Silvia, Francesco, che è ambidestro, ma vero. Nel senso che può tranquillamente accompagnare sul piatto sia con la mano sinistra che con la destra, e nessuno se ne accorge. Se lo dovessi fare io, vabbè, io non mi ritengo un batterista. No, io suono solo con la sinistra sul piatto, con la destra non lo so fare. Ma se ti ci metti lo saprai fare di sicuro. Sì, tu sei troppo buono, mi vuoi troppo bene, ti assicuro che no. Sono impedito. Certamente altri professionisti lo sanno fare, ma io no. Una delle cose che mi piace di Amedeo Francesco è che è strepitoso con i cantanti. Guarda che accompagno tanti cantanti. Il batterista dai cantanti molte volte è odiato perché esagera, no? Perché suona con un volume che anche durante un'esibizione, soprattutto dal vivo, un po' sovrasta, infastidisce. Invece a te piace lavorare con i cantanti. Mi piace tantissimo, anzi, adesso mi ci fai pensare, perché in effetti è vero. Lavoro con tantissimi vocalisti e cantanti sì, è vero. Da appunto li puoi citare tutti. Li posso citare tutti, ma non sì, in effetti con non Sergio, sono geloso. No, Amedeo, l'hai capito, no? Ma no, con Sergio ormai da 18 anni. Poi con Joy Garrison, che è una vocalista americana, la figlia di Jimmy Garrison, ormai dal 94 che sono a Roma, e lavoro con lei da allora. Poi con Nick Nightfly, che è uno speaker radiofonico. Certo, e lo salutiamo, che è un amico carissimo. È vero. Poi con Rosalia De Sosa, che è un'altra vocalist brasiliana. Anna Flora, che è un'altra vocalist brasiliana. Insomma, Amedeo, diciamola tutta, tu i cantanti te li sei fatti tutti, uomini e donne, non c'è... Gianluca Guidi, tra l'altro. Pure anche Gianluca Guidi. Sì, tra l'altro, che siamo in giro a suonare anche con lui, e quindi sì, tanti. È vero, hai ragione, mi fai pensare. No, io non pensare più di tanto. Fattene una ragione, è così. Allora, invece, ti voglio far ascoltare una vocalist che probabilmente non conosci, perché stiamo parlando proprio della nuova generazione americana. Una cantante che noi seguiamo e teniamo d'occhio da un po' di tempo, perché anche lei, come te musicalmente, è versatile, quindi è una cantante che viene dal jazz ma si cimenta con l'R&B, e vorrei che Francesco Tromba, che è esperto di vocalist, non per motivi artistici, ma proprio per motivi fisici, ci presentasse il talento di Kristi Dunshill. Lei ha circa 30 anni, ha collaborato con, l'abbiamo già ascoltata in realtà qui al soundcheck nella compilation di Supreme Sonasy, ha una voce stupenda, afroamericana, capelli stupendi, forse un pochettino dovrebbe fare un po' di dieta, l'unica cosa è questa, ho visto le foto un po' dicendo? Più recenti. Ma non lo accetto questo commento. Te l'ho detto che a lui non gliene come frega niente, io ho capito Tromba, non gliene frega niente della musica, dell'arte, del talento, dello studio. A lui gli interessa quello dalla A alla Z, soprattutto intorno alla Q, quello gli interessa. Cose culturali. A lui. Si chiama Kristi Dunshill, Time All Mine è il titolo dell'album. Il brano è uno standard favoloso, riarrangiato anche molto bene. The Way You Look Tonight. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Si chiama Nate Smith, brano Disenchantment The Wait, e qui la partecipazione della vocalist Amma Watt al soundcheck di Radio 24, un batterista della nuova generazione from New York, quando nostro ospite c'è invece un batterista che ormai ne ha dette dietro al suo strumento, ne ha fatte di tutti i colori nell'ambiente del jazz, in quello del pop e comunque della musica d'autore. Io sono molto contento di aver avuto nostro ospite Amedeo Ariano, così come di aver avuto finalmente ospite avete come vocalist la nostra Silvia Barba. Grazie, ma noi ci rivediamo. Noi ci rivediamo sabato prossimo. Anzi, ci vediamo nei prossimi giorni, perché verrai il 5 aprile all'Auditorium Parco della Quello, Musica. Quello, già preso il biglietto. Ecco, seconda fila. Io non lo so, continuo a emozionarmi, Amedeo. Non so se tu quando sali sul palco ti emozioni ancora, ma a me succede. No. A me no. Ma come non mai? Mi succede mai. Ti spiego, anzi, dimmi il segreto. Devo dire la verità, non lo so qual è il segreto. Anzi, spesso me lo sono chiesto. Dico, ma perché mai non mi emoziono mentre suono? Forse l'emozione che ho rimane dentro di me, ma purtroppo non riesco a esternarla, forse. Non so, non riesco ad emozionarmi, sia che suoni in... con 10 davanti a 10 persone che davanti a alle grandi platee. Eh sì, purtroppo perché c'ho questo problema, GG. Hai non questo problema esistenziale. Grave. Secondo me dovresti parlare con Tromba, che ha altri problemi. Forse mi puoi aiutare. Tromba, hai una domanda per Amedeo Ariano? Sì, ce l'ho. Allora. Attenzione, Amedeo, te lo dico, perdonalo. Tu lo sai, perdonami. Tu lo sai. Mi hai raccontato spesso che le cose più interessanti succedono dopo i concerti. Mannaggia, qual è stata la cosa più interessante che è successa dopo un concerto? La cosa più interessante dopo un concerto è stata... Se la puoi raccontare, ti ricordo che stai in radio, Amedeo. È stata... poi siamo andati... Si sta censurando da solo. Sei stato con... Va bene, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle 19:15 e vi do appuntamento all'Auditorium Parco della Musica. Se vi trovate a Roma il 5 di aprile, venite a trovarci nella Sala Petrassi, un bel concerto per celebrare Sounds for Children, questo importante progetto che stiamo portando avanti per UNICEF, per portare la musica ai bambini anche Bellissimo. In contesti sociali molto difficili. Un progetto molto importante sul quale stiamo investendo tutto il nostro amore, tutta la nostra passione. Che bello, e anche bellissimo. Tu, Amedeo, davvero. Sarai coinvolto, visto che adesso sei anche un didatta eccezionale. Grazie, ti ringrazio tanto e aspetto tutti gli amici alla tournée di Sergio Cammariere, che parte, è già partita, e quindi vi aspetto. Certo, ma ti faccio una sorpresa, perché ultimamente tu hai registrato con un pianista della nuova generazione, proprio italiano, di jazz, ma anche se ha una vena molto melodica nel suo modo di comporre, che si chiama Daniele Pozzovio. Daniele Pozzovio. Yes. E qui c'è anche Luca Bulgarelli, sì, al contrabbasso, sì. Da questo album di Daniele Pozzovio chiudiamo con Resurrection, che è anche il brano che apre questa produzione. Grazie a Amedeo Ariano per grazie la partecipazione. Grazie a te e a tutti quanti voi, ragazzi. Grazie amici. A Silvia Barba. I love you, I love you. Me too, ciao. Invece non vorrei salutare Francesco Tromba, ma piuttosto farmi una chiacchiera con lui subito dopo il programma. E io saluto tutti i miei fan, ciao a tutti. È insopportabile, è diventato.